non me ne parlare. Ma voi non me ne parlare, che mi sta scoppiando la vescica. Chi è Gianni? Aspettate, sono al telefono, rientro subito. Sì, è Gianni, sono, sì, sto aspetto le comunicazioni di oggi. Ah, perché che l'ha detto ritorno? Non eravate già in radio, ehi? Io sto, mi ho mangiato una cosa, adesso è il tempo di fare la pipì, poi viene... Io un amico e ci prendiamo il caffè. E cosa ti volevo dire, Gianni? Domani ritiro il farmaco, quello che devo fare, e poi ti manderò le foto della mia pennetta per le iniezioni di questo farmaco. Poi non è un farmaco, è l'ormone della crescita. Perché se dopo l'operazione c'è stato uno scompenso di tutto, no? Testosterone per quanto riguarda i gioielli di famiglia, le surrenali, la tiroide, eccetera, eccetera, tutto collegato, eh? Ed è della, vabbè, poi ti manderò le foto, dai, è facile da usare, e la fialetta dura 27 giorni, mi pare. Sì, infatti, la fiala è un giorno. Hai detto una fiala al giorno? Ma che cos'è? Una penna, una penna, con le micchioni? Si mette, si apre la penna, no? Si separano la parte davanti e dietro, si inserisce questa fialetta, somatotropina, no? L'ormone della crescita, ma è una dose talmente piccola, sono 0,4 mg, praticamente una goccia per volta te ne devi fare. È bellina, di semplice utilizzo, e poi ti manderò le foto, dai. Anzi, credevo di farmela già stanotte, invece arriva domani il farmaco, salvo imprevisti. E devo fare 7 giorni su 7, 3 mesetti di cura, a vedere cosa ne esce fuori. Ma questa qui arriva direttamente dal magazzino della SL? Sì, sì, sì, la devo ritirare all'ufficio farmacia del Palazzo Rosa. Ma che arriva in farmacia? No, no, forse perché è roba delicata lì. Forse starò sbagliando io, ma mi hanno detto che il medico di famiglia non la può prescrivere, non è roba che compri in farmacia. Dovrei prendere quegli uffici là, tipo o Palazzo Rosa oppure via Gianfarino, angolo via Tempio lì, l'altro ufficio. Ufficio farmacia, come lo vuoi chiamare? Sì, si va a farmacia delle sede. Ma io praticamente ho delle medicine che si chiamano Cibo, che io uso quotidianamente, e sono delle pastine che mi danno direttamente dalla sede, però le portano loro in farmacia, le mandano dalla sede e te le contano. Quando tu vai a sentire al dottore, te lo ordinate, ti dice quanto ne ha preso, quanto ce ne sono qui, e io le prendo 3 al giorno, mi ho finito, ah sì, sì, va bene, e te ne ho ordinato il lì, però quelli non ti dicono, cosa fa bene con tutto marci, e farmi un'altra scatola, e dice, chieda al dottore se invece che una ne può durare 2 scatole, ti avverto. Ma quello sembra che il sangue, guarda, tutto quanto, non fa sprechi di nulla con le medicine, non niente da fare, tutto preciso, dice che deve essere verde, che deve riacquistare, se no va a pure anche a loro, capito? Ti dico di opinioni. E vabbè, ma guarda, là, convinci, cosa devi fare? Io sono già un bel po' che sto facendo 3 giorni al giorno, quindi immagino come sono. Anzi, adesso sto un po' stravato, perché prima stavo andando bene, adesso sto un po' mangiando gelato, un po' giù. Mi sono detto che bene la cantina di mezzo. Sì, ma poi ho visto gli aghi, fanno ridere, sono i microaghi, usa e getta, no? E peraltro ho trovato un video esplicativo, no? Perché a me me l'ha spiegato 2 settimane fa e più, già me ne ero dimenticato come si caricava e tutto. E poi cui ho trovato le istruzioni della casa produttrice, dice passo passo come fare. Poi la fiala, una volta messa nell'iniettore, non è che la devi togliere ogni giorno, dura 27 giorni, perché la quantità è talmente esigua. E me l'ha tarata il rappresentante, l'ha tarata da dentro, dice dentro non la devi toccare, solo prima di iniettare giri la rotellina che arriva a segnare 0,4 mg, fai entrare l'ago, premi il tazzino, fatto, aspetti pochi secondi, tanto che il contatore arrivi a zero, fatto tutto. Una dice di farla alla stessa ora, quando sono a casa, più che altro, tipo alle 9 di sera, no? E va conservata in frigo, questa somatotropina, va conservata in frigo, la devi levare mezz'ora prima di fare l'iniezione. E quello è l'ormone della crescita, mio. Vedrai che fra pochi mesi mi vedrete alto, 1,90 m, biondo, con 30 cm di pisello. Sì, così ti assomigli proprio a Biggie Jim. Sì, ma divento muscoloso, buono pure magari, con tutti i denti magari, magari. Mezzo orecchione poi diventa anche. Sì, comunque dice che a parte serve a pareggiare lo scompenso, come si dice, di questi ormoni, dice che in alcuni casi ha dato forza, cioè ti dà, è come un ricostituente, in molti casi ha dato forza fisica e magari mi riprendo da questa stanchezza. Poi con calma manderò le foto, dai, della... Io, per me è un mondo nuovo quello. Oh, gli aghi sono lunghi solo 8 mm, c'erano anche da 5 mm di lunghezza, ma 5, ma non arriva nemmeno sotto pelle, non arriva nemmeno al grasso sottostante. E la devo fare o la pancia, no? Dove c'è la ciccetta, no? Oppure sulla coscia, sopra, no? Non di lato, sopra, a scelta. Naturalmente basta cambiare posto sempre, non è che devi fare un buco unico, se no ti fa la voragine. Mia, e poi tu la devi fare sempre prima di ogni passo, no? E così è più seccante. No, che poi sulla coscia non la farò, non credo che la farò sulla coscia, perché per fare la coscia devo abbassare i pantaloni, no? Invece io non faccio altro che aprire un bottone della camicia, sai, la ciccia lì intorno all'ombelico, fatta. Poi magari se me la faccio sull'uccello cresce quello, non lo so. Dice che i bambini che hanno problemi di crescita se ne fanno altro che 0,4 mg, se ne fanno 2 mg e mezzo. Sai che è rachitico quelle cose là? Ma quelli sono altri casi. Io l'ho sempre detto, se a me mi mettessero a collaudare materassi, no, a dormirci sopra e vedere quale è più comodo, io ci metterei la firma. Oppure bidello, che tanto non fanno un cazzo di niente tutto il giorno. Vai Claudio. Scusi, prendi lavoro a Antonello Pomponio. Meglia, mi ne rubo il lavoro e anche la... Com'è che si chiama quella cosa? Il reddito di cittadinanza. Bidello. Allora non sapevi. Sì, il bidello l'ero spinta facendo. si deve portare la carriola per portarsi la pancia piena di birra. Oh ragazzi, vi devo lasciare, devo andare in bagno in fretta, Ivan sta arrivando e mi faccio un giro, dai, breve. Nel caso ci sentiamo più tardi, non ci metteremo molto. Ciao, ciao a tutti. Sono andato a controllare se c'era un bel fuoco. Sì, ha detto che il lavoro che piace a lui è Birello, Antonello ha dichiarato. Le sue dichiarazioni sono quelle, Birello, capito? E quindi per quello te l'ho detto. Anche il mio era così, poi frequentando appunto educatori eccetera, queste cose, non l'ha più fatto. Poi adesso sta iniziando di nuovo, io me l'ho visto con uno di Alghero eccetera, che appunto c'è sempre le mostre di un educatore, e mi ha detto proprio esattamente come hai detto tu, ha detto sono le persone che si impongono male. Ho detto, ma non si avvicina neanche, lui è lontano, le abbaia. È normale. Nel suo territorio, sì. Proprio qua, ogni volta che io esco dal cancello di casa, se li vede fermi lì nel marciapiede sotto casa, sempre lo stesso problema. E mi ha detto, è normale per lui, perché è gente che non conosce, la vede nel suo territorio. Sì, l'ho detto, però io ce l'ho agganciato, se lo dovessi mollare, ne salta sopra la musica. Cioè, questo non deve succedere. È successo un paio di volte, quindi dovete, io l'ho comprato, mi taglio la catena, non si può più tenere. Vicino, non, vabbè, i nostri, quelli che vengono magari per strada se li punta, ma i nostri qua sotto, se sono seduti al sole che passa lui davanti, stanno seduti al sole, non si alzano, no. Perché su quello l'ho educato così, nel senso che non li faccio anche avvicinare, a volte si alzano, si puntano, però non fanno più di tanto. Ma quel problema là è un problema che io pensavo di aver risolto, invece sta tornando. Lui, chiunque vede all'interno del condomino, che non è del mio palazzo, gente che conosce, perché va, se li conosce, che li vede da lontano, inizia a scondizionare, lo mollo, va proprio sopra, tutto se lo abbracciano, tutto lo vado, rimani sicuri che anche grattare la pancia. Ma se gente che non conosce, non c'è niente da fare. E questo questo di Alghero, che è educatore, mi ha detto guarda, è una cosa normale per i cani, però il fatto che lui parta, perché abbaiare è normale, il cane è così, però il fatto che tu non puoi volare il guinzaglio perché se vede gente che non conosce vai di musica, allora dice, è una cosa che bisogna affrontare con molta serietà, infatti io non lo mollo mai, non lo posso mollare, non lo so dentro in campagna, oppure qua a volte la mattina presto che non c'è nessuno nel giardino, capite? Se no per strada è assolutamente negativo. E figura di lui, il cane a combattimento, non è detto che i cani a combattimento, il cane a combattimento sono cani che appunto sono abituati così. rumorosi, sia come il tuo che come il mio, sono cani molto tranquilli. È chiaro che non hanno paura di niente, perché il mio non ha paura di niente. Anche l'altro giorno, la stessa storia, con questo ragazzo, ogni volta c'è una discussione. C'è un fattore tedesco molto bello, grande, maschio. Le cammina a fianco, senza guinzaglio. È già successo un paio di volte. Filippo, io ce l'ho a guinzaglio. Come vedere questo cane impazzisce, si solleva dritto. Guarda, da paura, da paura, proprio da non vedere, tira fuori tutti i denti, cazzo, proprio sembra una mucca, ormai a me mi scappa il cane, cosa succede? Cosa succede? Contiene la guinzaglia, ma il mio cammina così, cazzo sì, ma ce l'hai sempre per strada, ce l'hai sempre per strada, tira la guinzaglia, e loro che non succede niente, se disgraziatamente ti parte, e si avvicina a Filippo, succede casino forte, lo detto, succede casino forte, perché sì, è vero che sono cani che si difendono, cani, ma dire che è un cane da combattimento è una parola brutta, capito? I cinesi e non i cinesi, sto immaginando il primo cane che è nato per abbattere i tori era il bulldog inglese, ma cosa c'entra? Non è detto che deve essere un cane, si difende con tutti, è un cane abbastanza tosto, ma a me non mi va di farlo, di fare queste cose. Si è girato al tutto mosso a capo il cane di Mario, il presa canario, le passa sotto mio Filippo, nonostante sia è alto quanto il tuo, grosso, bello di stazza, il valore passa sotto, gli ha morsicato la coscia, si è girato giù, l'ha pigliato Barugondo, l'ha bucato Rugabo. E allora? Che ti do e togliere la musa vuota, togliere, e abitualo a non tiene a guinzaglio, non lo bolli, e quando vedi la Gesù non ti avvicinare, per me a volte lo posso accarezzare, no, ma no, vai, allontanati, e non lo faccio toccare a nessuno, non faccio toccare a nessuno, perché io lo vedo già che lui col petto di coda che c'ha, dritta la gola, comincia a diventare nervoso, e quindi non lo faccio avvicinare, però io non posso tenere il mio cane con la musa vuota, perché morsica la gente, no, non li faccio avvicinare, io vado per la gente, li marcio a piedi che magari scendo giù verso l'edicola e me ne vado dall'altra parte, me ne vado dall'altra pure, esco e passo dove ci sono le macchine, cioè non faccio, mi fermo e lo tengo a guinzaglio corto, fermo, stai seduto, lo faccio sedere, lui rimane fermo e faccio passare la gente, perché incrociando, è successo incrociando, allora ce l'aveva mia moglie, io lavoravo, incrociando una persona mi è saltato sopra e l'ha rotto il giubbotto. Thank you. servi a Pasqua, è quello delle bombole, Mario e Antonio, quelli lì. Io prendevo la bombola da lui quando ero via a Pasqua, adesso me la porto anche qua. I primi giorni non c'era Cristo, dovevo chiudere a Filippo in una stanza per poter far entrare a lui. Perché non lo faceva entrare, lo ringhiava, lo abbaiava, nulla la va. Infatti alla fine andavo, scendevo io a prendere la bombola, manco ci saliva. Mi sono rotto le balle un giorno, l'ho chiamato per la bombola, mi ha detto cosa vai a fare, io Filippo, perché lo chiamo Filippo, già radurai. No, Filippo tu sali. Ho preso, gli ho messo la pettorina, guinzaglio, l'ho aspettato nell'ascensore. Come te l'ho visto? Stai fermo. Fermo, non ti muovere, perché se ti muovi te ne sta con la testa, fermo, ora rimaneva fermo, fermo, stai fermo, facci urue, toccalo, toccalo, non ti vale di nulla, toccalo, tranquillo, toccalo. In primo momento ho fatto lo scatto per gli... stai fermo, non ti muovere perché ti ammazzo. Rimaneva fermo e lo accarezzavo le piano piano. Vedi? Vedi chi è? Vedi? Sono Mario, vedi? Bravo, ti vuole bene. Così, proprio cercando, fastidio l'adulto, accarezza, non ha fatto il dito, non ti fa tenuta. No. Adesso quando lo vede, come suona il campanello, addirittura piange. Piange. Mario c'è, Mario c'è. Ma lo aspetta l'ascensore e le fa le feste. Capito? Mario o Antonio? Yeah. Cirano, sono Vita. Ma chi lo fai per parlare? Meccanico. Sempre lì. Infatti Roberto c'ha la 147 uguale alla mia, però c'ha il 130 cavalli, capito? C'ha il 130 cavalli lui. Oh, vado lì, sei lì perché lui lavora per appuntamento, capito? Non è che c'è l'officina piccola. Però uno o l'altro mi alterno, vai, perché sono amico di tutti e due, quindi mi alterno, un po' vado da uno, un po' vado dall'altro, e niente. Vabbè. KK. Mastro Giulio, Ronaldo, dove sei? Ma cosa va Marco? Queste punte che sta facendo cosa servono? Pensavo che avesse preso la 10. Vabbè, su quello non ci piove, si abbassava anche prima. Lo sapevamo che era orecchione, dalla nascita. Ma che vado a fare? Io vado a fare un video della buia. Ma poi ci sono fuori il campo, fuori il drone. sacco di diffusi. Però non è così, non è così, esattamente non è così, capite? Perché noi l'abbiamo saputo il giorno stesso, perché è successo di sabato, la domenica c'era la gara a Coso, come si chiama, vicino a Ottieri, quindi non è così, esattamente così. Perché lui erano tutti in greffa, si è affiancata uno, ha detto beh, ma ce la facciamo a camminare che dobbiamo andare non so dove. Lui ha accelerato e praticamente c'era una semicurva, lui gli è un po' andata male la semicurva, perché c'era l'altra e se scendo dritto e scendo tutto guarda il rete. Sì, non sono lui, io ho fatto anche raduni con Pinna, quando abitava via Pasqua e c'era la pizzeria. Quando me l'hanno detto sono rimasto di merda, perché la domenica prima ero assieme a loro, il giorno non ci sono andato perché dovevo lavorare, ero a Bosa, però quello è stato un incidente, una macchina che non era la precedenza, lui aveva il Kawasaki Ninja. A 70 anni, però lo sapeva portare, e si è sbattuto al guardarail e gli ha aperto la vena della gamba, è morto di sanguato, non ha fatto in tempo neanche a arrivare l'ambulanza, capito? Per dirti, un sacco di gente, però io anche stamattina l'ho presa, già, io ero in città, non sto più andando da nessuna parte, non è che mi metto a fare il pazzo, capito? Però la moto è morta. Scooterone, mi scrive il tuo, come era il tuo, era un Burgman 400, Luigi Sanna, c'era anche il giornale, l'ha letto tutto il giornale, l'ha letto anche da poco che ancora non si è ripreso, milionino, capito, lì vicino prima del mercato, l'ultima rotonda che c'è, quella grande, un po' fatta in cemento, e lì è morto già un ragazzo, capito, ha preso un curdo nel marciapiede, della rotonda e ha volato la cribbado, adesso vediamo se si riprende, ma già passato più di un mese, sempre in coma. E quella grande, che è brutta, perché è talmente grande che sembra ci sia spazio quando arrivi nel rettilineo, lui stava correndo sicuramente e ha preso il, perché c'è il, la vedi, la punta e poi c'è la curva per girare, però è molto larga, quindi lui ha preso quel pezzo di coso che hanno fatto, che l'aveva arrestato chi ha progettato quella rotonda, e è volato in aria, e ci darà la berra, proprio un sacco di patate, è morto, come carbonio, lo so, ci avevano appeso. La Peugeot cos'era? Adesso mi ricordo, cioè, forse una Peugeot 104, no? La Peugeot c'aveva, quadrucada, scendeva in via Lumberto al senso contrario con la sirena. Mi. Sì, c'era la Peugeot, infatti una volta l'ho visto via Lumberto, capitale del... No, quello andrà bravino, un po' pazzo, ma comunque c'era bravino. Se mi ricordo, eravamo io Michele, c'era un'anima di cose, di Gavino Passo, non mi ricordo dove eravamo. Relli del Vermentino. Relli del Vermentino era, vicino a Olbia. Sì, Oschi, quella zona lì. Relli del Vermentino. E mi era detto a pista. C'era lui, con la Peugeot, c'era lui. E poi faceva sempre consiglio di gara, era insomma una persona che le piaceva molto fare queste cose, però lì c'è stato un errore madornale che è volato, e vabbè, possiamo perdere. Ah, ma mettiamo 7:21, di che ora sono? È stato già alle 7:20, sono, fa blu. Figura che mi ha fatto direttamente, io e Franco, ma non si può passare qua, poi abbiamo fatto tutto il giro. Franco, ora io passiamo qua, che il poliziotto veramente deve stare là, se volete passare sopra il morto. C'è un caldo cazzo, poi ci sono 24 gradi, adesso chiudo il termosifone, ma involontariamente, ti giuro, involontariamente scendendo la Isola Rossa in fretta con la furgonetta di lavoro, ho preso un cane che ha attraversato la strada, mi sono fermato subito nella piazzola, sono andato, l'ho preso, cazzo, mi è morto in mano, ho chiesto di chi era, di chi non era, nessuno dice, no, è un cane che ogni tanto sta qua, qui e là, cazzo, ma tu credimi come un fratello, ma ci sono rimasto, a piangere mi sono messo, mi ha fatto un male, sono rimasto una settimana, guarda, poi figurati che arrivavo a casa e c'avevo il cane, quindi una cosa, una tragedia, infatti sono rimasto lì, sono andato a prendere mio amico, il mio collega che avevo lasciato all'impianto di Badesi, siamo tornati, nessuno sapeva, appunto nessuno si era presentato perché l'ho tolto, l'ho messo fuori dalla cunetta nell'erba, mi ho preso una busta, me l'ho messo in macchina, sono andato su vicino all'impianto dove c'era un terreno di terra molle, l'ho preso e l'ho sotterrato, ma mi ha fatto un male, una cosa allucinante. No, ma che? Già me lo ricordo perfettamente. No, io mi sono fermato subito, ho messo le quattro frecce, mezzo Garrera, si è fermata anche un'altra macchina, c'era cioè, successo, tu la porca miseria. Ma si muoveva, perché lo stavo caricando a Santa Maria Cugina, c'è il veterinario, che tra l'altro lo conosco. Lo stavo caricando, mi muoce in mano, ho fatto spento, molto. Allora l'ho preso per non. Perché io poi con la macchina, cazzo, poi ci avevano messo i satellitari, quindi fermarmi così, vabbè. Quindi l'ho tolto dalla strada, l'ho messo la cunetta, sono andato, ho preso mio amico e l'abbiamo sotterrato. Per non lasciarlo lì, giustamente, perché ma io mi ho preso tutte le responsabilità, ho detto a tutti quelli che mi hanno visto, detto, se fate il mio nome e cognome, già mi conoscete, poi me la prendo io la responsabilità, non c'è problema. Invece non si è mai presentato nessuno, quindi era sicuramente qualche cane senza microchip, senza niente, però cazzo quanto mi ha fatto male. Mamma mia, arrivavo a casa, cazzo, guardavo il mio cane, i lacrimi mi riparava. Sì, mi aveva rotto il radiatorino dell'aria condizionata. Il radiatore dell'aria condizionata, quello piccolino che c'è sotto il fiorino, no? Me l'aveva rotto. E niente, ho fatto la dichiarazione all'azienda appunto che avevo investito un cane, la verità, perché non è che puoi dire base. L'ho portata, siccome c'erano a casco qui, l'ho portata alla Fiat lì a Valle d'Oria e le hanno sostituito. Grave. di 7 anni. 7 anni c'ha già. Grande, non è già abbastanza dolce come per cani, anche perché il mio è una razza particolare, è un fuori Italia, quindi è molto più grande rispetto al maschio, alla femmina del bulldog inglese, ma è la razza, non è il veterinario. Tutti i bulldog inglesi, il carlino, il coso, il bulldog francese, tutte quelle razze lì. Massimo 9 anni, Aretta, massimo 9 anni, poi iniziano a camminare più, a stancarsi molto, capito? E hanno un cuore molto, molto piccolo, così. Il Fippo mangia 200 grammi di, mangia una volta solo, mangia mezzogiorno e boom, 200 grammi di crocchette al pesce e basta. Poi la sera quando ne stiamo cenando, a volte gli do una mela, e la sbuccio e la metto alla ciotola, ma non le do più di tanto, perché lui deve rimanere su quella misura lì, non deve superare i 30 kg, capito? Adesso lui è sempre 29, 28, ma è arrivato anche a 32, infatti era molto, molto fiacco. Il veterinario mi ha detto, no, togli almeno la cena, farlo mangiare solo a pranzo, e vedrai che infatti adesso salta molto di più. L'ha portato mio marito l'altro giorno lo stesso all'albero, a questo suo amico che c'ha questo maneggio grande, c'è anche cavalli, dove avere i cavalli impazzisce, lui vede grandi impazzisce, va a rompere le palle qualche giorno, le dà qualche calcio, cazzo ci si rancarecci. Chinese lo stesso, sempre un molosso è già, tutti quelli che hanno il muso schiacciato, tutti i molossi sono, no, ma anche io, perché lo devo ammazzare, il mio se non è ammalato che deve morire di vecchiaia, lo faccio morire di vecchiaia, a costo di stare giorno e notte presso a lui, se poi è malato che soffre è chiaro che allora si trova un rimedio, perché non bisogna mai far soffrire nessuno, soprattutto gli animali, e basta. No, Mario è pazzo. Mario è pazzo, ha già l'altro giorno stava finendo. Ci ho guardato e era piacere di chitarra. Ah, non la rete da pollaio, la rete recinzione proprio fatto il muretto a 1,20 m, un metro e venti di altezza, e poi i paletti con la recinzione a ringhiera, come ci abbiamo qua nel condominio nostro. Uguale a questo, ed è 6 metri per 4, la casa fatta con a tegole, il cane, c'è pazzo, ma se tu mangi di mai oggi, c'è un cane, quando sta fuori, che c'è gente a casa perché sta dentro, se c'è gente a casa deve stare come dentro a casa, cazzo, una villa l'ha fatta, in miniatura. Allora io li ho costruiti, non li ho fatta. 500 euro. 500 euro non gli pareggia il cane, mai. Ma io se non costa 3.000 euro non gli pareggia. Quindi quello che ha preso l'abruzzese l'ha pagato 3.500 euro. Ma c'è affetto. 500 brienti. Allora mi diventa un canino che si accampagna, avrei detto. Lascia perdere, è presa a Canaria, non ce ne manca uno a stesso che è presa a Canaria, ma tanto questo è presa a Canaria, e vuole mantenuto, vuole avere posto, adesso, ma buffo verde, mica a me mi mette, io sono 1,70, mi mette i piedi e ne davanti, mi mette i piedi sopra le spalle, mica. Ah, i piedi sopra le spalle mi mette, lascia perdere, è una cosa allucinante, bravissimo, però è meglio lasciarlo perdere, come il Maro quando si incazzano. No, ha fatto un 1000 euro almeno solo di recinzione, questi pannelli quadrati, belli, zingati, la casa ha fatto la cuccia, tutti i mattoni, intonacciata, all'interno c'è tutto il coso di legno sollevato e poi c'è tutto un sistema di cuscino in abbastanza alto. Il gomma piuma e poi ci ha fatto il tetto proprio a sporgenza con le tegole, finte tegole quelle in plastica, molto bello, molto bello. Agito bene di Ninoga, mette la Ninoga di Boggio, di Lugano, come di Rodondolo. Sì. Io me lo portano a casa, quelli della Farminia, lo stesso, quello 55, quello grande e quello piccolo 35. E vabbè, però, quello per mangiare, allora bisogna accontentare anche a lui. E va bene, perché è un pasto sano, usa la gente che piglia ghiaccio delle loro spine, ma se vedi, ti manca la iatta, ne ho con i ghiacci. Sì, sì, con i sereno sono della Farminia. C'ha il deposito della Farminia, gli bustano direttamente loro, il cibo è buono, c'è di pesce, di carne, di verdure, e ho iniziato a fargliele provare tutte, questo è quello che mangia con più voglia, come le vele salta, e di pesce. Pesce mi pare c'è anche qualcosa di qualche altro ingrediente, ma roba di verdura, capito? Va bene, costa, vabbè, è grande il sacco, però costa, va bene. Sono crocchette non grandi, non sono grandi, perché lui non mastica, è tutta godindura, infatti a volte gliele bagno appena, ma proprio mezzo bicchiere d'acqua, non del rubinetto, della bottiglia, e gliele giro col cucchiaio, capito? In modo che siano un po' più... salmone, ma sì, ce ne sono anche quelle della Parmigna con salmone dei trittati particolari, pesce. Infatti Filippo che aveva la bocca è un delfino, me quando sbadiglia cazzo un delfino sembra. Io è da tanto che le prendo, io ti ripeto, svuoto il sacco ed non ce n'è di roba farinosa, sono belle. Inizialmente è capitato anche a me, sì, però era delle crocchette più grandi, queste sono piccole, sono un po' più grandi di quelle che mangiano i gatti, mi ha consigliato proprio il veterinario, perché lui fa di all'inghidura, capito, si butta tutto dentro, quindi essendo grandi manda i nuovi gigiri, infatti molte volte rigurgitava. Adesso invece già, sarà 6-7 mesi che prendo questo, no, non l'ha più fatto, assolutamente, non si è mai grattato, nulla, vabbè che, ogni, allora adesso l'ho portato, siamo a febbraio, beh, l'ho portato dopo l'Epifania, è già un mese passato, un mese adesso, devo prendere appuntamento in nuovo con Monica e portarlo a lavare. Già, adesso salviettino di giorno, salviettino tutti i giorni, adesso quando lo porto salgo, si siede, lo faccio coricare, appaccinato nel lettino suo, le pulisco tutte le zampe, le salviette, le orecchie, la bocca, il muso, sopra, e poi giù da me un pizzino a ciamballo di un banolino, Filippo, allucinante, quando mangia, quando beve lo devi tentare, c'ha il suo il panno che poi durano 2-3 giorni e poi bisogna buttarli, quelli che ho comprato sempre da casa di mani 6 euro da 20, quindi tu immagini già di sta sempre bevendo, come beve, subito devi andare, pulire il muso perché se non fa le gocce in terra, guai, capito? Un pizzino di 10 neonati. Ascolta, dal pisello quelle gocce le hai mai viste per terra? Io già sto attento, lo porto la mattina, lo sale, lo pulisco, poi quando ne rientro dal poggiolo, lo so, a portare il poggiolo trovo queste gocce, vado a vederle, e le roba del suo pisello, vado a pulire a lui pure per te, ma sono cani eccezionali, perché sono un bel affettuosi, non c'è niente da fare, mai più agita Mario Bulldoggi Gregge, mai più, troppo impegnativo, Filippo è troppo impegnativo, adesso mi sta guardando con il cazzo sotto la televisione, il suo lettino, ma la ringa vola, che poi va a stare lì, quando dormi con la ringa vola già, ma perché? E allora, fate troppo lì, poi vai, no, adesso guarda che adesso. Di solito alle 7.20, 7.15 usciva prima, adesso non ne fate più niente, perché mi ha trovato in tenere? è più grande l'inventa e più le piace stare al caldo. Ho detto, ma la pipì la deve fare, ma non gliene frega niente a lui, tanto non la fa dentro casa, resiste, ma non ce ne sta a fare. No. Sono già le 8:15 passate e c'ha gli occhi chiusi, che lo vedo qua, guarda, lì lavora, cucato al calduccio lì, e c'ha il suo lettino col plaid, guarda che non si muove, adesso mi alzo, vado a chiamarlo, manco si muove, non devi toccare, muoverlo, se no non ci viene. Sopra la brandina sua, c'è il lettino proprio, il lettino, ed è vicino alla finestra, vicino nel salone, lì c'è caldo, un po' di caldo. No, vedo, una iatta, quando esco, allora se ne vuole rientrare subito perché c'è freddo, rientra, va, le orecchie, c'ha le orecchie ghiacciate, capite? Ha le orecchie ghiacciate. E allora, 5 minuti già si scalda subito. Come si sta? Così sta mi Filippo? Vuole. Cucato in chivi. Lui prende proprio la punta della lingua davanti. Un giorno era addormentato, sono andato, me l'ho toccata, è un po' ruvida, no? Me l'ho toccata, gliela stavo tirando. Manco balle balle. Dormito era, dormito e rimasto. No, lui ce l'ha un po' ruvida, beh, sono due razze diverse. No, lui con lui ce l'ha ruvida, e balle che non c'ha, mamma mia, è anche l'altro giorno veterinario. Allora, signor Claudio, non facciamo saltare questo cane, mi lasci salta a pace, lo per favore, non devo fare lo zoo a casa, lasci perdere, già basta, boh, finito. Bene. Allora, Claudio, io so lui già non ne voleva, perché la moglie non ne voleva, ok, quindi ci siamo accordati e abbiamo fatto a testa nostra, dai. Quindi 4 me li ho presi io, io ho pagato 300 euro al veterinario per il parto, perché praticamente li ha dati tutti a me, io li ho venduti 2 ad Alghero, uno a Villanova Monteleone e uno a vicino a Ozieri, tutti amici di Mario, a 1700 euro l'uno, quindi ci ho guadagnato. Avevi il coso, no, ho venduti e sì, ci ho guadagnato, però tutti seminati, vaccinati, microchippati, prima di darli se non te li compra nessuno, con tutti i documenti in regola, pedigree, tutto, capito, quindi li ho venduti bene, però ne ho già ne ho speso soldi, capito, vabbè, bisogna, i cani sono così, adesso lasciamo stare, ogni tanto già avviene la mania di saltare qualche cagnetto, ma perché gioca con i cani piccoli, gioca, spotta, sono femmine, con quelli grandi non li può vedere, qualche rondoio, però ogni tanto avviene la mania, io siccome non ho fatto inserizzare niente, sono diventato una botte, già ribassa, tanto altro veterinario, oramai non, già grandetto, non ha più voglia di stare a... ma paio anni fa, 2 anni fa, era sempre in porra io. E fai tanto, io mi inizio a vestire. Mi ha chiamato, mi sto vestendo, adesso già ci organizziamo, andiamo a mangiarci una pizza in questi giorni, va bene, già, dai, io mi sto preparando, sono le 8, ci sentiamo domani, oggi non si è fatto sentire nessuno, a parte Marco, vabbè, sì, evidentemente erano impegnati in altre cose, ok, ci aggiorniamo, dai, che mi vesto, mi sto vestendo con la porta del cane, tu non porti. Ciao già, domani, anche a te, buon fine serata e buon tutto, ciao ciao.